Sono perfettamente d'accordo con voi, Bazin, disse la duchessa. Andiamo nel vestibolo, così almeno sappiamo perché scendiamo dal vostro studio, mentre non sapremo mai perché discendiamo dai conti di Brabante. Vi ho ripetuto 100 volte in che modo il titolo è entrato nella casa d'Assia, replicò il duca, mentre scendevano a vedere la fotografia e io pensavo a quelle che Swann mi portava con Bré. Attraverso il matrimonio di un Brabante nel 1241 con la figlia dell'ultimo Langravio di Turingia e d'Assia. Come vedete, più che quello di Duca di Brabante nella casa d'Assia, è il titolo di Principe d'Assia ad essere entrato nella casa di Brabante. Ricorderete del resto che il nostro grido di guerra era quello dei duchi di Brabante. Limburgo a chi l'ha preso! Fino al momento in cui abbiamo lasciato le armi di Brabante per quelle di Guermantes, cosa nella quale, del resto, trovo che abbiamo avuto torto, e l'esempio di Gramont non è tale da farmi cambiare idea. Ma, osservò la duchessa di Guermantes, dal momento che a prenderla è stato il re dei Belgi, e poi l'erede del Belgio si chiama Duca di Brabante. Mia cara, quello che dite non sta in piedi, non ha nessun fondamento. Sapete quanto me che ci sono titoli che spettano di pieno diritto al pretendente anche se il territorio è occupato da un usurpatore. Facciamo un esempio. Il re di Spagna si qualifica per l'appunto duca di Brabante invocando un possesso meno antico del nostro, ma più antico di quello del re del Belgio. Sostiene inoltre di essere duca di Borgogna. Re delle Indie occidentali e orientali, duca di Milano. Ora, non possiede né la Borgogna né le Indie, e anche il Brabante non lo possiede più di quanto lo possieda io stesso, o di quanto lo possieda il principe d'Assia. Il re di Spagna si proclama per giunta re di Gerusalemme, altrettanto fa l'imperatore d'Austria, e nessuno dei due possiede Gerusalemme. Tacque un istante, imbarazzato, nel dubbio che quel nome, Gerusalemme, potesse aver infastidito Swann per via degli affari in corso, ma solo per riprendere a ritmo accelerato «Quello che dite potreste dirlo di tutto. Noi siamo stati duchi d'Aumont, ducato che è passato nella casa di Francia altrettanto regolarmente che Joinville e Chevreuse nella casa d'Albert. Non avanziamo rivendicazioni su quei titoli come non ne avanziamo su quelli di Marchese di Noirmoutier, che è stato nostro prima di diventare, in modo del tutto legittimo, appannaggio della casa di La Tremoille. Ma dal fatto che alcune cessioni sono valide, non deriva automaticamente che lo siano tutte. Per esempio, continuò rivolgendosi a me, il figlio di mia cognata porta il titolo di principe d'Agrigento, che ci viene da Giovanna la Pazza, come quello di principe di Taranto ai La Tremoille. Ora, Napoleone ha assegnato il titolo di Taranto a un militare che, per carità, poteva essere un ottimo soldato, ma così facendo l'imperatore ha disposto di qualcosa che non gli apparteneva, peggio ancora di Napoleone III, quando ha creato un duca di Montmorency. Questo Périgord, infatti, aveva almeno per madre una Montmorency, mentre il Taranto di Napoleone I aveva di Taranto solo la volontà di Napoleone che egli diventasse tale, il che non ha impedito a Chez des Anges di chiedere al procuratore imperiale, alludendo a vostro zio Condé, se era andato a raccattare il titolo di duca di Montmorency nei fossati di Vincennes. Sentite, Bazin, non chiedo di meglio che seguirvi nei fossati di Vincennes e magari anche a Taranto. A proposito, Char, caro, quello che volevo dirvi, mentre mi parlavate del vostro San Giorgio di Venezia, è appunto che abbiamo intenzioni, Bazin ed io, di passare la prossima primavera in Italia e in Sicilia. Se veniste con noi, pensate che altra cosa sarebbe. Non parlo solo della gioia di vedervi, figuratevi, con tutto quello che mi avete raccontato così spesso sulle memorie della conquista normanna e le testimonianze dell'antichità, figuratevi cosa diventerebbe quel viaggio a farlo in vostra compagnia. Insomma, persino Bazin, ma che dico, persino Gilbert ne trarrebbero profitto, perché sento che anche le pretese alla corona di Napoli e tutte le altre astruserie riuscirebbero a interessarmi se me le spiegaste voi in qualche vecchia chiesa romanica o in quei piccoli villaggi appollaiati come nei quadri dei primitivi. Ma adesso vediamo un po' la vostra fotografia. Disfate il pacco, ordinò la duchessa a un lacchè. Ma Oriane, non questa sera, la guarderete domani, implorò il duca, che mi aveva già indirizzato dei segni di spavento vedendo l'immensità della fotografia. E no, mi diverte vederla assieme a Charles, replicò la duchessa con un sorriso al tempo stesso di concupiscenza artefatta e di finezza psicologica, giacché, nel suo desiderio di essere gentile con Swann, parlava del piacere che avrebbe assaporato guardando quella fotografia come di quello che un malato sente che proverebbe nel mangiare un'arancia, o come se stesse contemporaneamente combinando una scappatella con degli amici e informando un suo biografo di una passione che le facesse onore. «Ebbene, vuol dire che verrà a trovarvi appositamente», tagliò corto il duca, al quale la moglie fu infine costretta a cedere. «Passerete 3 ore insieme lì davanti, se la cosa vi diverte», aggiunse ironicamente. «Ma dove lo metterete, un affaruccio di quelle dimensioni?» «Ma in camera mia, voglio averlo bene in vista». «Ah, liberissima! Se va a finire in camera vostra, ho buone speranze di non vederlo mai», disse il duca, senza pensare alla rivelazione che faceva sventatamente con queste parole del carattere negativo dei suoi rapporti coniugali. «Disfate la confezione con estrema cura», raccomandò Madame de Guermantes al domestico. Moltiplicava le raccomandazioni per gentilezza verso Swann. «E non sciupate la busta!» «Bisogna anche rispettare l'involucro», mi sussurrò il duca all'orecchio, alzando le braccia al cielo. «Ma caro Swann», aggiunse, «io che sono solo un povero marito alquanto prosaico, quello che ammiro in tutto ciò è che siate riuscito a trovare una busta di simili proporzioni. Ma dove l'avete scovata?» «È del fotoincisore, che fa spesso spedizioni del genere. Ma è un bel maleducato. Vedo che ha scritto duchessa di Guermantes senza signora». «Lo perdono», disse distrattamente la duchessa, reprimendo, come se un pensiero improvviso l'avesse rallegrata, un impercettibile sorriso. Ma, tornando subito a Swann, «Ebbene, non mi avete ancora detto se verrete in Italia con noi?» «Temo, signora, che non mi sarà possibile». «Eh già, Madame de Montmorency ha più fortuna. Con lei siete andato a Venezia e a Vicenza. Mi ha detto che con voi si vedono cose che altrimenti non si vedrebbero mai, di cui nessuno ha mai parlato. Gli avete mostrato cose inaudite e anche di quelle famose. Ha potuto cogliere certi particolari che, senza di voi, non avrebbe notati nemmeno se ci fosse passata davanti 20 volte. Decisamente è stata più fortunata di noi. Prenderete l'immensa busta delle fotografie del signor Swann», disse al domestico, «e andrete a deporla, piegata da parte mia, stasera alle 10:30 a casa della signora Contessa Mollet». Swann scoppiò a ridere. «Vorrei che mi spiegasse, tuttavia», riprese Madame de Guermantes, «come fate a sapere 10 mesi prima che non potrete venire?» «Cara duchessa, se proprio ci tenete ve lo dirò. Ma vedete, intanto, che sto molto male». «Sì, Charles, tesoro, mi sono accorta che non avete affatto una buona cera. Non sono contenta del vostro colorito. Ma non vi sto chiedendo di partire fra una settimana, bensì fra 10 mesi. In 10 mesi c'è tutto il tempo di curarsi, non vi pare?» In quell'istante, un lacchè venne ad annunciare che la carrozza era pronta. «Forza, Oriana, a cavallo!» disse il duca, che già da un po' scalpitava d'impazienza, come se fosse lui stesso uno dei cavalli in attesa. «E allora? Qual è in breve la ragione che vi impedirà di venire in Italia?» insisté la duchessa, alzandosi per congedarsi da noi. «Ma, cara amica, la ragione è che sarò morto da parecchi mesi. Secondo i medici che ho consultati, alla fine di quest'anno la mia malattia, che del resto può portarmi via da un momento all'altro, non mi lascerà in ogni caso Più di 3 o 4 mesi di vita sarebbe già tanto, rispose Swan sorridendo, mentre il lacchè spalancava la porta a vetri del vestibolo per far passare la duchessa. «Ma cosa mi state raccontando?» esclamò la duchessa, fermandosi per un attimo. Si era già avviata verso la carrozza e alzando i suoi begli occhi azzurri e malinconici, ma pieni di incertezza. Trovandosi per la prima volta in vita sua al bivio fra due doveri così diversi come salire sulla sua carrozza per recarsi a un pranzo e testimoniare pietà a un uomo che sta per morire, non rintracciava nel codice delle convenienze alcuna indicazione circa la giurisprudenza da seguire e, non sapendo a quale dare la preferenza, pensò di fingersi convinta che la seconda alternativa non si ponesse nemmeno, in modo da poter obbedire alla prima che in quel momento richiedeva lo sforzo minore, superando così il conflitto con la migliore delle soluzioni che consisteva nel negarlo. «Volete scherzare?» disse a Swan. «Sarebbe uno scherzo di un gusto eccellente», rispose ironicamente Swan. «Non so perché vi sto dicendo queste cose. Non vi avevo mai parlato finora della mia malattia, ma poiché me l'avete chiesto e ormai posso morire da un giorno all'altro, ma soprattutto non voglio che facciate tardi al vostro pranzo, vi stanno aspettando», aggiunse, perché sapeva che, per gli altri, gli impegni mondani sono più importanti della morte di un amico, e si metteva nei loro panni in forza della sua buona educazione. Quella della duchessa, tuttavia, le permetteva a sua volta di scorgere confusamente che il pranzo al quale era attesa doveva contare per Swan meno della sua propria morte. Così, pur rimettendosi a camminare verso la carrozza, abbassò le spalle dicendo: «Non state a preoccuparvi di quel pranzo, non ha la minima importanza». Ma queste parole indispettirono il duca, che sbottò: «Via, Orian, adesso non vi metterete a chiacchierare e a scambiare le vostre geremia di Consuan. Sapete bene che Madame de Saint-Euer ci tiene a mettersi a tavola alle 8 in punto. Bisogna pur sapere quel che si vuole. Sono già 5 minuti che i vostri cavalli aspettano. Vi chiedo scusa, Charles», aggiunse rivolgendosi a Swan, «ma sono le 8 meno 10. Orianne è sempre in ritardo. Ci vogliono più di 5 minuti per arrivare dalla vecchia Saint-Evert». Madame de Guermantes avanzò decisamente verso la carrozza, lanciando un ultimo saluto a Swan. «Dobbiamo riparlarne, sapete? Non credo una sola parola di quel che dite, ma ne riparleremo a 4 occhi. Vi avranno stupidamente spaventato, venite a colazione quando vi fa più comodo». Per Madame de Guermantes tutto si risolveva sempre in una colazione. «Mi direte voi il giorno e l'ora». E, sollevando la sua gonna rossa, posò il piede sul predellino. Stava per entrare nella carrozza quando, scorgendo quel piede, il duca esclamò con voce terribile: «Orian, cosa state per fare, disgraziata? Avete tenuto le scarpe nere, con un vestito rosso. Salite di corsa a mettervi le scarpe rosse. Anzi», ordinò al lacchè, «dite subito alla cameriera della signora duchessa di portare giù le scarpe rosse». «Ma caro», mormorò in risposta la duchessa, imbarazzata, rendendosi conto che Swan, il quale stava uscendo con me, ma si era fermato per lasciar passare la carrozza, non poteva non aver sentito. «Dal momento che siamo in ritardo...» «Ma no, c'è tutto il tempo, sono appena le 8 meno 10, non ci metteremo mica 10 minuti per arrivare al Parc Monceau. E poi che volete, fossero anche le 8:30 ci aspetteranno. Non potete certo uscire con il vestito rosso e le scarpe nere. D'altronde non saremo gli ultimi. Vedrete, ci sono i sassenage, quelli non arrivano mai prima delle 9:20. La duchessa risalì in camera sua. «Ah, poveri mariti!» commentò a nostro beneficio il signor di Guermantes. «Li si prende poco sul serio, ma al momento buono servono, e come! Se non era per me, Orian sarebbe andata a pranzo con le scarpe nere!» «Non stava male», disse Swan. Me ne ero accorto, ma non mi aveva per niente scandalizzato. «Non dico questo», replicò il duca, «ma è più elegante che siano dello stesso colore del vestito. E poi, state pur certo, appena arrivata l'avrebbe notato e io sarei stato costretto a venire a prendere le scarpe e avrei pranzato alle 9. Addio, ragazzi», disse spingendoci dolcemente via. «Andatevene prima che Orian ridiscenda, non perché non le faccia piacere vedervi voi due, al contrario le piace troppo. Se vi trova ancora qui è capace di rimettersi a parlare, è già così stanca, arriverà al pranzo bella e morta. E poi vi confesserò in tutta franchezza che sto crepando di fame. Ho mangiato malissimo stamattina, appena sceso dal treno. C'era una dannata salsa bernese. Malgrado ciò, non mi dispiacerà per niente, ma proprio per niente rimettermi a tavola. 8:05. Le donne, per colpa sua ci verrà mal di stomaco a tutte e due. Orianna è molto più delicata di quanto non si creda». Il duca non provava il minimo ritegno a parlare dei suoi malesseri e di quelli di sua moglie a un moribondo, perché, interessandogli di più, gli sembravano più importanti. Così fu solo per buona educazione e buon umore che, dopo averci gentilmente riaccompagnati fino al portone, gridò con voce stentorea, come fosse su un palcoscenico, a Swan, che era già nel cortile: «E voi, mi raccomando, non lasciatevi impressionare dalle scemenze dei medici. Che diamine, sono degli asini. Siete solido come il Pont Neuf, ci seppellirete tutti». Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, terzo volume, La parte di Guermantes. Letto da Yaya Forte. Traduzione di Giovanni Raboni. Regia Flavia Gentili. Tecnici del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma. Montaggio Andrea Giuseppini. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsedizioni.it e sui social network. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.